Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci, eccoci, siamo arrivati. C'è stato un piccolo ritardo per motivi tecnici, ma Pierpaolo è arrivato, hai fatto un buon viaggio Pierpaolo. Sì, intanto vi saluto tutti, grazie per essere qui tutti qui sentiamo, in radio, insomma. Una bella famiglia. Una bella famiglia. La radio, dire, una bella famiglia. Poi ti sei portato degli amici, giustamente, sì. Anche un fotografo, quello è fondamentale, straordinariamente fondamentale, visto che il fotografo che sono io non sono così, così eccelso, ma insomma me la cavo, ecco. Pierpaolo Lauriola. Musicalmente, e sono 20 anni che canti, che suoni, che ti dai da fare, non è così? Sì, esattamente, sono, come si dice, ridendo e scherzando, sono passati 20 anni. 20 anni tra l'altro che non mi ero mai guardato indietro, non, di solito non lo faccio quasi mai. Però a un certo punto, insomma, hai deciso di guardarti indietro. Con Polvere mi sono... Polvere col punto finale, per cui insomma un po'... Che non c'entra niente con quella di Ruggeri, no? No, quella senza punto. Senza punto, esattamente. Questa invece era quella col punto, questa era grafata. E quindi sì, è stato un bel tuffo, insomma, nel tempo, prima di tutto per me. E poi, insomma, la voglia di raccontarlo, di condividerlo con gli amici. Che poi sono stati un po' il motore trainante di tutta questa, di questo racconto. Che dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, tanto salutiamo Marco Borgato che è in regia, che è il nostro propulsore di stasera. E dobbiamo sottolineare che il disco Marco che... è anche Maurizio. È anche Maurizio. Io sono il conduttore, sono due propulsore secondo praticamente. E parlando di questo disco raccoglie cose che tu hai scritto durante il tempo praticamente. Sì, io praticamente l'ho cominciato a scrivere nel senso di finirlo, ho finito praticamente, l'ho iniziato a finire 3 anni fa. Bene. Perché in questo viaggio che ho fatto nella mia terra nativa, che è la città di Manfredonia, in Puglia. Tu vieni dalla Puglia e poi sei transitato per Bologna e poi per Milano. Sì, diciamo che ho girato un po', i miei amici mi chiamano la Polide, per cui bene. Ci sarà un motivo per cui diciamo che ho vissuto un po' ovunque, tra l'altro anche a Verona per un certo periodo. Bene, per cui... quindi sei veneto. Hai toccato la terra veneta. Anche la terra veneta. Esattamente. Gioco in casa in qualche modo anche qui. E insomma sono tornato a casa per motivi familiari. Certo. Ed è stato un po' l'inizio di un tuffo nel passato. Per cui ho trovato questo quadernetto su cui io da piccolo scrivevo, insomma, già dei testi. Mi divertivo a scrivere gli LP proprio dandogli un titolo. Ah, bene. E c'era questa canzone che si chiamava Il Tempo. Ed è stato un segnale, no? Poi una serie di cose successe e poi un'ultima, diciamo, un ritrovamento di una cassetta, di un demo tape che avevo fatto con la mia vecchia band. Citiamo la band. La band I Catarsi. Perfetto. E dove praticamente mi ero accorto che questa superficie, no, della cassetta, la parte plastica, era praticamente diventata di un altro colore. Quindi la polvere si era depositata. C'era polvere praticamente. C'era polvere, ma addirittura si era formato uno strato, era diventato quasi solido. Irriconoscibile, non si capiva niente. E quindi mi sono detto, mi sono detto che la polvere in qualche modo aveva disegnato un po' la dimensione del tempo che passava. Perfetto, quindi il discorso del CD è proprio questo, la dimensione del tempo, un viaggio. Viaggio in te stesso praticamente. Sì, partendo da me naturalmente, però poi attraversando un po' anche quelle che sono le storie che sono successe, insomma, capitate. E poi facendo, diciamo, a me poi alla fine piace scrivere di i dischi devono parlare un po' a tutti. Certo, poi, diciamo, certo. Nel disco non si parla di me, ma di un personaggio, insomma. Partendo che, da te, anche gli altri. È una considerazione chiaramente che parte da me anche dagli altri. E quindi dalla prima canzone fino all'ultima un po' una sorta un concept. Certo. Io di solito faccio solo album concept. Perfetto. Perché mi piace proprio raccontare, certo, storie. Benissimo. Allora cominciamo ad aprire questo album concept. Ti ricordi che traccia da disco che hai scelto? La prima, Sogni e Segni, iniziamo subito, insomma, con, iniziamo subito con quella. Sì, diciamo che nel viaggio del protagonista, che inizia con i silenzi e poi si evolve, insomma, in tutti gli 8 brani, arriva a un certo punto, insomma, del racconto, dove in qualche modo il protagonista trova un po' la propria dimensione, cioè torna da questo viaggio e ritrova qualcosa che gli era successo per ricominciare a disegnare qualcosa di nuovo. Quindi, insomma, un testo importante che io in qualche modo ricordo di aver scritto scendendo dal treno a Milano Centrale. scrivendo qualcosa in metropolitana fino ad arrivare a casa. insomma, era quello che cercavo. Ci sono dei momenti in cui non aspetti anni, come tipo La Carne del Tempo, che è un pezzo che ci ho messo anni per scrivere, e pezzi invece come Sogni e Segni, che è proprio stato una sorta di lettera, di testamento a quello che era stato quel viaggio quell'anno. Rock Wave Live. Capiamo i colori, le sfumature di questo pezzo, e voglio capire il perché l'hai arrangiato in questa maniera. Parli di Sogni e Segni? Esatto, di tutto... quello che abbiamo sentito adesso. Allora, Sogni e Segni... Dobbiamo ricordare, cari ascoltatori, questa è la versione acustica, poi Pierpaolo ha un'altra versione, una versione elettrica, perché lui, come grandi musicisti, fa un doppio album. Allora, diciamola tutta. Diciamola tutta, dai. Allora, io non pensavo di fare questo disco, come le storie più belle, no? E quindi a un certo punto però sono tornato da questo viaggio e avevo ormai tutto questi il materiale, appunti, questi appunti, E avevo anche riascoltato poi quel demo, cioè ho avuto l'opportunità. Tra l'altro, per chi mi conosce, insomma, sa che nel mio, nella mia macchina ho ancora uno stereocassette. Ah, bene. Per cui praticamente è stato un attimo, no? Poi andare in macchina e riascoltare il demo, insomma, che avevi all'epoca. Dei quali c'era già I Silenzi, sì. Che insomma un pezzo che poi noi suonavamo già ai tempi dal vivo, insomma. Quindi tu hai carriera dei dobbiamo diversi. Sottolineare che Pierpaolo ha passato diverse band, non una sola. Sì, praticamente sono 20 anni di musica, insomma. Ho fatto tre dischi con i Catarsi. Catarsi, su quale direzione si muoveva? Catarsi erano una band indie, oggi si direbbe indie rock. Eravamo diciamo molto attratti dalla musica dei Fugazi, Sonic Youth. Quindi, musica che piace molto al nostro regista. Sì. È stato Dinosaur Junior, Pavement, insomma, Catarsi era quella roba lì. Negli anni 90, quindi parlo nel 94, sì. 95, fino ad arrivare insomma a festival che abbiamo fatto nel 96-97, anche Rock Target Italia. Ah, insomma, quindi festival cose. Di un certo peso. Sì, insomma, una bella carriera anche quella. E c'erano già un po' i germi o diciamo i semi di questo di polvere, fondamentalmente. Io ho anche un po' ripreso quelle tematiche, quelle poetiche, insomma, che avevo già nel cassetto. E, per cui diciamo la scelta di farlo sia in acustico che in elettronico in è andata un po' così. Io a un certo punto ho allestito a casa insomma, uno studio, un piccolo studio, quindi sì. Mac, Logic come software. Varie schede audio. Tu sei un esperto di software. Sì, tra l'altro è anche tra parentesi. Il mio mestiere, diciamo. Esattamente. Mestiere serio, come direbbe qualcuno. Anche musicista, mestiere serio. Certo, era una battuta. Certo, ma in Italia qualcuno dice di no, non è serio esattamente. Fare musicista. Soprattutto in questo momento. In questo momento, esattamente. La battuta viene amplificata. Per cui ho cominciato insomma a registrarlo per me, proprio per l'esigenza di ascoltarmelo, il piacere di farlo, perché insomma se fai musica ti deve piacere, cioè non ce n'è, insomma, se no è meglio non perdere del tempo. Per cui è una cosa che è nata proprio per me e giorno per giorno insomma si arricchiva, aggiungi una traccia, aggiungi un'altra, poi aggiungi un pianoforte. Tra l'altro la versione domo elettrica l'ho registrata da solo, insomma, dalla batteria fino alla voce. E quindi mettevo insomma in bella copia queste canzoni. E tra l'altro stasera insomma ho anche portato la versione domo. Sì, dopo la sentiamo, esattamente. Qualche pezzo nella versione domo. Quindi il disco nasce in questa ottica. In questa ottica, diciamo, con piena, quasi come se fosse un'orchestra gestita da me. Insomma, mi sono divertito a fare questa cosa. Anche perché è un po' figlia dei tempi, se vogliamo, perché è una cosa che probabilmente i critici non ne parlano tanto, però l'home made. Come proprio fenomeno sociale, cioè il disco registrato a casa con Logic, con Pro Tool, e penso che dall'altra parte ci siano tanti ascoltatori che lo fanno, insomma. È una realtà vivissima di cui probabilmente se ne parla anche poco, insomma, ecco. E io ho fatto semplicemente questa cosa che fanno tutti, insomma, oggi, registrarsi delle tracce con questi prodotti. Tra l'altro, per chi usa Mac c'è anche GarageBand, che per iniziare, insomma, è un ottimo prodotto. E è iniziata così, insomma, questa avventura di polvere. Poi, man mano che da casa transitavano amici, insomma, io facevo ascoltare magari qualche traccia. Ti davano i loro pareri. Alle feste, ai pranzi, alle cene, insomma. Sono due amici, sì, che sono presenti, che confermano quello che tu hai detto. Ecco. Poi, non so, le nostre cene tipiche, anziché suonarci i Battisti, con tutto il rispetto e la reverenza per Battisti, mi chiedevano di suonare delle mie canzoni. Allora io ci provavo, insomma, e facevo sentire I Silenzi, Sogni e Segni. Per cui, insomma, alla fine sono stati loro a darmi la spinta. Devo dire che insomma, una bella famiglia che mi accompagna. Famiglia di amici. E insomma, mi sono detto, caspita, qui bisogna continuare. Per cui sono passati 3 anni da quando ho iniziato. Dalla prima stesura. Dalla prima stesura. E poi è nata l'esigenza di fare la versione acustica, perché c'è stato proprio questo periodo della mia vita in cui ho voluto proprio denudarmi. Sì, resettare. Esatto, cioè proprio mettere la voce a nudo, la chitarra a nudo, cioè l'essenziale, cioè dire ma alla fine di tutto questo qual è l'essenziale? Cioè cosa rimane? Appunto polvere, punto, no? Perché il punto può significare tante cose, può significare il granello di polvere più piccolo, può significare un punto da mettere alla fine di un concetto e ripartire, no? Quindi è stato un po' il mio punto di fine di ripartenza. Fine di ripartenza. Che è un po' il concetto del, diciamo, di tutto l'album. Tra l'altro io quando ho registrato quest'album ho fatto anche delle letture, diciamo, tipo Il Verbo degli Uccelli, no? Che è diremmo un romanzo oggi, insomma, in realtà un libro, insomma, dei sufiti, dove si parla di questa leggenda, insomma, di questi uccelli che vanno verso la ricerca probabilmente di Dio, insomma. Ed è un po' il senso di tutto questo qual è, cioè arrivare a un certo punto e poi ricominciare, no? Quindi polvere anche questi connotati un po'. Poi si dice sempre che sarebbe bello che il pubblico, insomma, chi ascolta va a scovare, insomma, però poi alla fine nel mondo moderno, facendo interviste, vengono fuori questi dettagli, è inevitabile. Certo. Io sono un chiacchierone, quindi è impossibile. Non è che sei un chiacchierone, spieghi quello che stai facendo e quello che hai costruito. Spieghiamolo meglio suonando, che cosa, caro Pierpaolo? Io inizierei con il primo pezzo proprio del disco, che è I Silenzi. Sì, adesso lo suoni dal vivo, vediamo che apertura, che colorazione dai. Diciamo, I Silenzi, tra l'altro, è un pezzo che appunto parla cioè l'inizio dell'album, mm-hmm. Quindi il protagonista dell'album in qualche modo parte da questo silenzio interiore per ascoltarsi e capire un po' quello che sta succedendo, no? Certamente. Ok, buon ascolto. Il vento fischia forte dentro il mio tormento, è come se dovesse cambiare l'anima. Nella mia mente luce soffusa di un locale, gli echi di una stanza vuota, e in te voglio annegare, o brace di brama incandescente che in letti caldi consumi. I silenzi sono schiuma rabbiosa e danzante, ti rapirà un vento più forte del mio alito d'amore. Nei silenzi al di là dell'orizzonte ti rapirà un vento più forte del mio alito d'amore. Gira intorno al sole la riflessione languida, luce al mio tormento, la conclusione stabile. Nella mia mente luce soffusa di un locale, gli echi di una stanza vuota, e in te voglio tornare a vagire, meandro confuso che in letti caldi consumi. Simboli. I silenzi sono schiuma rabbiosa e danzante, ti rapirà un vento più forte del mio alito d'amore. Nei silenzi al di là dell'orizzonte ti rapirà un vento più forte del mio alito d'amore. Abbiamo sentito allora il pezzo, chiaramente in versione acustica. Dobbiamo ribadire ancora una volta che l'album ha due facce, quella versione elettrica e la versione acustica. Però la faccia, sì, due facce, però l'idea è sempre quella. La descrizione è sempre quella. Perché è proprio una ricerca partendo dall'io tuo e una ricerca sugli altri. Poi tu hai detto una cosa molto bella in un'intervista. Questo è un album, adesso te lo dico subito, biologico. Un album biologico. Come mai un album biologico? È un album biologico perché in qualche modo è stato prodotto un po' come si produrrebbe. Come una volta. Sì, come una volta, vabbè, ok, ok. Va come bene, una volta, tra virgolette. Un album green. No, è un po' come, immaginiamo un amico che ha un giardino. Mm. E a un certo punto si fa il suo giardino. Certo. C'ha le sue melanzane, no? E a un certo punto ce ne offre una. Mm. È un modo di produrre quello tutto dedicato a, insomma, al piacere di farlo, no? Per cui diciamo biologico in questo senso, nel senso che non ci sono logiche commerciali. Ecco, innanzitutto quello, non ci sono logiche commerciali. Non ci sono logiche di nessun genere, insomma, c'è solo la passione. Il polvere nasce così, poi se un giorno verrà spinto in altre direzioni, a me fa solo che piacere. Certo. Però ad oggi, insomma, è una testimonianza molto... nata vera. Dalla passione vera, come dovrebbe essere, insomma, come si dovrebbe, dovrebbero essere i dischi, esatto, come dovrebbero essere, ma purtroppo non è sempre così, insomma. Per cui diciamo è un album prodotto appunto molto scegliendo un po' tutti i dettagli, perché... ecco, un album prodotto scegliendo tutti i dettagli, come abbiamo detto precedentemente, un album che ha tanti anni assieme, cioè frutto di tante osservazioni, di tanti momenti, di tanti quadri che poi tu descrivi, rifai, ricostruisci in una certa maniera. Sì, diciamo che ogni canzone, appunto, tu hai suggerito questo concetto del quadro. Mm. E che mi piace bene, insomma. Mi fa piacere che sia soddisfatto. Sì, perché è bello, perché girando, viaggiando, al fine dei concerti ognuno pensa, esatto. Ognuno mi racconta qualcosa, chiaro, no? Ed è bellissimo, cioè, già questa è una magia, no? Il fatto che comunque la musica in qualche modo unisce durante, certo, un concerto, perché ognuno interpreta. Io ho interpretato così, un altro collega, esatto, un altro amico interpretava in un'altra maniera, esatto, e quindi ogni interpretazione è molto interessante, perché probabilmente la forza della canzone è anche questa, no? Quella che attraverso i suoni, attraverso le parole, in qualche modo apre degli spazi, degli scenari di osservazione e di riflessione, e che insomma diremmo oggi che sono sempre più rari, ma in realtà ci sono, insomma, basta cercarli, e un tentativo di polvere anche questo, insomma. C'è stata difficoltà a costruire la musica di silenzio, oppure una cosa che è andata via di pari passo, tac, su, momento creativo, e poi non ci sono stati nessun, ci sono stati dei problemi, ma problemi musicalmente di costruire l'impatto sonoro. Ma i silenzi in realtà no, del testo sì, so, sì, il sì, testo sì. Ho capito, era il testo, avevi già in mente praticamente. Musicalmente, ma diciamo che musicalmente al di là del tuo sì, è nata molti anni fa, insomma, sì, esattamente, come una canzone vecchia, prima in qualche modo sì. Il Trend d'Union, poi tutto il disco con quel nastro ritrovato. E se vogliamo, Silenzi era una canzone che già esisteva, per cui in realtà cosa ho fatto? Un esercizio di questo tipo, cioè ho ripreso un vecchio pezzo, ma ripreso nel senso che lo riprendevo a suonare. E in qualche modo i Silenzi è un po' la risposta a una vecchia demo, insomma, che io avevo nel cassetto. Per cui, ma diciamo che le canzoni si costruiscono giorno per giorno, insomma, sono figlie proprio del tempo che vivi, per cui Non c'è una difficoltà, io devo dire la verità, trovo molto piacevole scrivere. E perché un amichevole schiaffo? Amichevole schiaffo perché non me l'aspettavo. Ed è stato un po'... Sempre parlando del tuo disco. Sì, sì, detto, sì. È un amichevole schiaffo. Esatto, l'ho detto in un'intervista. In un'intervista, e, sì. Perché a volte anche a volte gli schiaffi, insomma, servono. Oggi, certo. Oggi sembra che abbiamo paura degli schiaffi, quelli a fin di bene, no? Quelli che ti danno una scossa. E per me Polvere è stato questo, cioè scriverlo, poi alla fine è stato in questi tre anni e mezzo in cui l'ho finito di scrivere, sono stati un po' questo, cioè una sorta di risveglio a certi concetti della vita che mi hanno anche aiutato, insomma, a vivere meglio, ecco, certo. A prendere, poi anche per vicissitudini, insomma, accadute, insomma, nel quotidiano, per cui l'ho definito un amichevole schiaffo perché, insomma, forse ci voleva. Vabbè. Però l'ho scoperto dopo. Una scossa. Nel momento, è stata una scossa. In cui mi è arrivato lo schiaffo non ero molto contento. Però poi l'ho apprezzato. Poi una cosa positiva che tu hai citato, l'indipendenza artistica, l'autoproduzione. Poi hai fatto un esempio molto significativo di Rino Gaetano, che fu il primo singolo fu prodotto dai Produttori Associati, il secondo singolo fu prodotto da Venditti sotto falso nome praticamente. Sì, perché in realtà la canzone italiana, cioè anche qui, no, in chi scrive di musica spesso c'è un po' di confusione o lo si fa apposta. Che, termine cantautore significa che ti scrivi la musica. Esattamente. È stato esiste, il primo. Esiste prima. È stato Bindi che ha coniato il termine anche cantautore. Prima, anche prima. Anche prima, no? Ricordiamo Bindi, è stato uno di. Quello più famoso. Ecco, quello più famoso. Per cui diciamo che insomma mi piace questa figura. Cioè, io mi definisco un cantautore nella misura in cui scrivo testi e musiche, perché mi piace fare due le cose. Certo. Però non nel senso di cantautore come genere musicale. Nel senso, sono distante probabilmente, no, dalla tipica formula cantautorale, perché poi è un'esigenza dell'industria discografica quella di creare generi per tutti i costi, insomma, di modo che tu che hai percorso i Sonic Youth, è un po' difficile. qualcuno ha parlato anche David Sylvie. Io sinceramente ascolto musica di tutti i generi. Perfetto. Da Bach ai Sonic Youth, ai Sigur Rós, ai Sonic Youth, perfetto. Cui, come posso non pensare che tutti questi elementi non siano in qualche modo entrati nella musica? Certo, sono d'accordo con te. Per cui diciamo anche lì, Silenzi è una canzone, sì, cantautorale, in quanto musica e testo scritto dallo stesso autore, però nello stesso tempo è una canzone che ha degli elementi new wave, probabilmente. Sì, esattamente, soprattutto new wave. Punk, certo. Sono i tuoi trascorsi. Sono i miei trascorsi. Poi un'altra chiave di lettura di Polvere, che mi ha, cioè un altro pallino che avevo a un certo punto mentre lo scrivevo, era quello di creare un disco che fosse... in qualche modo classico, però reinterpretabile. Cioè, il fatto di suonarlo anche chitarra acustica e voce, quindi di spogliarlo, era anche un po' il modo per dire, ok, io, cioè questa è la versione anche proprio denudata, per cui mettiamogli anche un vestito nuovo ogni volta che serve, ogni volta che vogliamo che la canzone esca da questa stanza e prenda un'altra forma. Certo. Quindi ammetto di essermi divertito a suonare le canzoni di Polvere in diversi generi musicali. Cioè veramente proprio sono di ogni dalla versione con fisarmonica e contrabbasso, dalla versione con quartetto d'archi, la versione chitarra e voce e via dicendo, versione elettronica, insomma. Certo. Per cui mi piaceva, insomma, l'idea di fare studiare anche un album che fosse reinterpretabile in diversi modi. Perfetto. Quindi cioè, mi piacerebbe, insomma, se queste canzoni un domani venissero anche suonate da altri, insomma, magari che si divertono a farle in sue un genere nuovo. Certo. Sentiamo un altro pezzo da disco. Che ti ricordi la traccia che hai scelto? La seconda era la numero 3, quindi Ci consumeremo in un abbraccio. Perfetto. Adesso la sentiamo e poi ne parliamo, ok? Ok. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Mi hanno detto che ogni amore è sempre Ha scritto che questo pezzo caracollavi romanticamente. Fammi vedere. Ah, vedo. Mi ha mostrato Pierpaolo la sua band praticamente. Hai fatto solamente. Hai gestito parallelamente alla band questo progetto da solista. Sì, sì, infatti. Ricordiamo chi è la band, il nome della band. Il nome della band con cui suono anche attualmente. Tuttora sono i Pliskin. E chiaramente. E sono Roberto Colombo e Luca Giuffrida. Mm. Detto il Giuffro. È un progetto attivissimo, nel senso che noi insomma continuiamo ad incontrarci insomma da ormai 7 anni. Quindi ormai è una cosa fissa. Da quella notte d'estate del 2006, come dice la biografia. E stiamo preparando il nuovo album che non sappiamo insomma quando che potete uscirà. Presentarlo anche qua con la band. Quando sarà pronto. Dal vivo suoniamo già metà dei pezzi dell'album. Tra l'altro faremo un concerto a maggio, il 26 maggio nel quartiere Baggio. Di Milano. Che differenza c'è tra il solista Pierpaolo e la band musicalmente? Perché io la band non la conosco, io conosco il solista Pierpaolo. Sì. Diciamo che la parte solistica sicuramente ti mette più a nudo, in qualche modo devi proprio gestire tutti i dettagli tu, per cui non hai mai quella spalla, no, su cui chiedere il consiglio. Mm. Poi vabbè, in qualche modo comunque lo stesso diventa una band. I pezzi li scrivi tutti te della band però, quasi. Più o meno sempre. I testi sicuramente e anche le musiche. Quando arriva la sera sì, insomma, è un album scritto da me, cioè che è il primo album dei Pliskin, uscito nel 2009, che tra l'altro i radioascoltatori, se vogliono recuperare, lo possono recuperare dove? Su www.pliskin.eu. Perfetto. E anche sul mio sito web pierpaoloriola.it, c'è una pagina dedicata ai Pliskin, per cui ormai è in download gratuito dopo tanti anni, per cui in realtà i miei progetti, cioè sia con i Pliskin che da solista, sono progetti corali, cioè io finisco sempre per essere una band, perché comunque anche la parte da solista, scrivo le canzoni, scrivo i testi, magari la produzione, tutto certo. Quello. Però si finisce un po' sempre per vivere la dimensione della band, per cui io alla fine ho una band nei live, che c'è proprio si è creato uno spirito di band, tant'è vero che facciamo un po' fatica a dire Pierpaolo Riola live. Ho capito. Ci sentiamo anche lì una band. Perché tu cioè musicalmente parti da una band, è poco da fare. Sì, a me piacciono le band, cioè proprio il concetto ti piace suonare dal vivo. Sì, di collettivo, di scambio. In 20 anni praticamente ho iniziato la prima band citabile, nel senso che facevamo proprio concerti nei live, erano gli Eco. Poi Catarsi, 5 vs 1, è durata un annetto, e poi vabbè sono arrivati. E com'è questo ricerca, non dico interessante, di altri momenti musicali con band svariate. Perché? Sì, ma perché ognuno poi arricchisce. Cioè, certo. Non si può mai pensare di essere qualcosa da solo, cioè, proprio impensabile. Per cui quando suoni in una band automaticamente c'è uno scambio di cassette ai tempi, di dischi poi, di CD o di MP3. Per cui uno scambio di vedute, di pareri, di vite, no, di storie. Per chi scrive è fondamentale raccogliere storie. Come fai a scrivere se non... È bella questa frase che tu hai detto. È fondamentale lo scambio di opinioni, di impressioni, di emozioni. Sì, sì, è proprio alla base, almeno del mio modo di concepire, insomma, tutto questo mondo. Che poi fondamentalmente io faccio per passione, cioè lo faccio con la passione, con la voglia proprio di raccontare, insomma, di dire, insomma, quello che mi, sono le cose che mi succedono, comunque le certo. storie, insomma, che mi raccontano e via discorrendo. Per cui in qualche modo io è come se mi sentissi sempre in una band, ecco. Perfetto. Quindi dal vivo tu hai detto che nei solista, cioè, sei accompagnato. Anzi, facciamo una cosa, stasera facciamo anche un pezzo di Pliskin, così. Ah, va bene, così facciamo un par condicio. Par condicio. In ogni caso tu hai detto che quando nell'album sei accompagnato da una band, cioè da qualcuno che ti accompagna, non sei solo sul palco, questo voglio dire. No, allora chiaramente adesso in questo momento sei da solo. In questo momento presento anche la band, in questo momento sono da solo, però la mia band tipica, anzi poi magari diciamo anche le date, perché chiaro, ho voglia di, insomma, di partecipare live, visto che live ormai, insomma, dopo 20 anni posso dirlo, sono la mia parte forte, nel senso che sei un uomo da palcoscenico. Per chi mi segue pare che, insomma, la parte live sia la parte più bella. È apprezzata. E allora, insomma, vale la pena citare. Il 2 marzo saremo a Milano nello Spazio Teatro 89, un teatro bellissimo, accogliente, insomma, dove c'è anche un'acustica molto, molto interessante. Per cui 2 marzo Milano. Vabbè, poi sul mio sito ci sono tutte le date. Prendete nota, è 2 marzo Milano. E poi ci sarà un'altra serata il 23 marzo alle Scimmie, sulla barca che viaggia sui navigli. Quindi c'è un altro famoso sì, locale, insomma, milanese, famosissimo. Sono un abitué, insomma. È bene. Ormai. E il 23 marzo saremo di nuovo lì. E lì ci sarà la mia band, insomma, che è Santi Giannetto alla batteria, il maestro Santi Giannetto, Alessio Torregrossa al basso e Gianluca Cisternino alla chitarra. E laddove riusciamo, abbiamo anche una viola. Però. O diciamo un violino. Qui. Quella è una parte, diciamo, un plus che ci permettiamo qualche volta dove l'atmosfera, insomma, ne vale la pena. Certo. Ecco, l'idea è anche quella di fare dei live dove a tema, nel senso che per esempio l'ultimo live che abbiamo fatto è stato anche una sorta di reading, cioè c'era tutto Polvere più altri pezzi di Quando arriva la sera, insomma, altri inediti. E poi dei reading, delle letture. Si va da Bronsky a Pavese. Come si usava una volta? Sì, noi non abbiamo inventato nulla, probabilmente. Prendiamo, sì, gli anni 60, la Beat Generation portava questo. Esatto, la musica anche dove c'è poesia, racconto, insomma, dove ognuno poi porta la sua esperienza. A 360 gradi, possiamo dire questo. Esattamente. 360 gradi, suoniamo che cosa, Pierpaolo? Allora, a questo punto direi di fare un pezzo. Come tutti i musicisti, apre il libro dei testi, no, e gira la pagina. Canzoniere, come tutti i musicisti. Ci sente il rumore proprio, tutto dal vivo. 22:59, quasi 23, manca pochi secondi. Ma io farei a questo punto l'alternativa. L'alternativa è che è un pezzo, diciamo, che un po' anche questo è un pezzo di slancio dell'album, dove il protagonista è prima del viaggio, questo. Quindi entra in treno. C'è una frase chiave che dice: l'alternativa diventa la distanza che ci separa dalle decisioni se si è in viaggio. Questo, diciamo, un po' il... Vabbè, pensiamoci su, ecco. Io la canto e poi ognuno... Uno lo interpreta come vuole. Lo interpreta come meglio crede. Ok. Cielo ci raccoglie il mare, davanti a me non c'era altro che un'enorme pianura piatta, alternativa diventa la distanza che ci separa dalle decisioni. Se si è in viaggio, l'alternativa diventa la distanza che ci separa dalle decisioni. Tutti i colori dell'universo formano un perfetto quadro e scorga dalle labbra come soffio vitale. L'alternativa diventa la distanza che ci separa dalle decisioni. Se si è in viaggio, l'alternativa diventa la distanza che ci separa dalle decisioni. L'alternativa diventa la distanza che ci separa dalle decisioni. Se si è in viaggio, l'alternativa diventa la distanza che ci separa dalle decisioni. Se si è in viaggio, ci voleva perché è un pezzo con molta enfasi, con molto trasporto. Questa è in chiave elettrica, però poteva essere anche in chiave acustica, sì. Però poteva essere in chiave elettrica, visto l'irruenza che gli ha dato al pezzo. Questi suoni, questi, un critico ha scritto questi archi ampi, abbastanza particolari, che si aprono, che danno una colorazione ampia, sospesa. Bello, ha ragione. Chiaramente, cari ascoltatori, io ho sentito la versione acustica del pezzo. La versione elettrica è un po' diversa. Però l'enfasi, il trasporto che hai dato in questo momento, mi piace molto questo pezzo. Ci senti qualcosa di più. Ami tutti i tuoi pezzi, però questo particolarmente io ho avuto l'impressione. Non so. Cosa dici? No, io le amo tutti. No? Ami tutti. Non si può non amare i pezzi. Sì, assolutamente. Sì. Poi, tutti figli tuoi. Una delle domande che mi fanno di più, no? A partire dagli amici, poi gli ascoltatori. Qual è la canzone che preferisci? Cioè, è una domanda proprio che mi fanno tanto. E tu cosa rispondi? Io ce le ho in realtà, quelle predilette. Che ami di più. Però probabilmente è sbagliata la risposta, non so, perché dipende anche dalle situazioni. Non so, evidentemente il motivo che ti ha portato a scriverle è perché ogni canzone dipinge bene una determinata situazione. Per cui quando ti trovi in quella condizione, probabilmente riesci a cantare meglio quel pezzo. Io te ne faccio un'altra. Qual è la canzone che ti fa più soffrire? Che ti hai fatto più soffrire per costruirla? Quello voglio chiederti. Caspita. Vabbè, sicuramente La carne del tempo. Ecco, La carne credo è un grande pezzo, La carne del tempo. Molto bello, molto significativo. Devo dire che ci ho messo proprio una vita. Era sempre lì sul punto. Era quasi pronta già tantissimi anni fa. Però mancava qualche sfumatura, qualcosa che mi faceva, insomma, me la faceva tenere ancora nel cassetto. Per cui Polvere mi ha dato proprio la possibilità di ascoltare, veramente, perché probabilmente è un tipo di intimità che non poteva. E poi diciamo che in qualche modo ha trovato anche una nuova collocazione, no? Certo. La carne del tempo, cioè è stata spostata al tempo in cui è stato scritto Polvere. per cui diciamo io in genere non amo proprio definire i luoghi delle canzoni. Con La carne del tempo sono riuscito a farlo, perché cita Parco Palestro, che è un parco di Milano. E proprio perché in quel è solo l'inizio della storia, per cui diciamo in qualche modo voleva dare anche un connotato fisico. Un po' mi piaceva anche l'idea, come dire, che un bel giorno qualcuno può andare in Parco Palestro perché ha sentito La carne del tempo. La carne del tempo. A proposito di connotati, adesso sono le 23:06, tu non lo sai, ma Marco lo sa e i nostri ascoltatori lo sanno. A quest'ora, in questo momento, alle 23, c'è un piccolo giochetto: i famosi dischi da portare su un'isola deserta. Vabbè, qui quanti ne vuoi? Facciamo, sei da solo, possiamo citare anche i tuoi allora, amici. Io lo dico perché mi piace questa cosa, no? Cioè, con me questa sera qui ci sono due miei amici. Certo, perché no? Fabio, che tra l'altro è di Padova. Quindi un concittadino. Un concittadino, perché è stato bellissimo ritrovarci a Padova. Poi il valore sociale della musica, certo, cioè in ogni posto in cui vado. Trovi sempre qualcuno. Trovo sempre qualcuno, ci facciamo due chiacchiere. Un bicchiere di vino, possiamo dirlo. Ma la musica è proprio questo. E parliamo di musica, di arte, quello. Insomma. E poi Nicola, che insomma è un mio amico che mi accompagna insomma spesso in tutta questa... Le tue peregrinazioni sono... In questa narrazione c'è anche Nicola. A tutto tondo. Adesso ritornando al discorso dei facciamo 5, visto che sei da solo abbiamo allora, tempo. Allora, 5. 5, una cosa, non devi... Certe entità, puoi anche citare entità, se no citare dischi ufficiali, entità musicali. Poi se vuoi possiamo fare parlare anche i tuoi amici, se loro vogliono intervenire. Sì, dai, possiamo fare. Allora, 5 dischi, entità, insomma, vabbè. Musicisti che ami particolarmente, che ti hanno lasciato un segno. Non è facile. E lo so che è difficile. Questo gioco alla Nick Hornby. Sì, esatto. I 5 dischi che porteresti in un'isola deserta. Alla fine della fiera di Joshua Tree degli U2. Poi Dark Side of the Moon di Pink Floyd. Come mai The Dark Side e non il periodo prima, non il periodo dopo? Perché quel periodo? Perché è legato alla mia storia. Cioè io amavo i dischi proprio, l'LP. Adesso sono ritornati fortunatamente. E avevo comprato i tempi da The Dark Side. Da piccolo avevo... Sì. 13-14 anni ho comprato Dark Side of the Moon perché ero entrato ormai in questo mondo di musica fantastica fatta appunto di U2, Cure, Simple Minds ai tempi, Depeche Mode. E c'erano anche i loro, i Pink Floyd, c'erano insomma loro. Cioè mi piaceva questa cosa del concept, questa attenzione particolare che c'era nel fare il disco, insomma, dalla copertina fino ai dettagli della musica, cioè la percepivo ti sei innamorato musicalmente di loro, cioè di questo disco. Sicuramente, insomma, sì, particolare. Poi vabbè, è chiaro, i Pink Floyd li amo proprio la follia, sì, un po' tutto, cioè, Amalgama per esempio è il mio disco forse preferito. Però Dark Side of the Moon anche un valore affettivo. Ok, perfetto. Potevo essere meno banale dire Amalgama, però Dark Side of the Moon è legato anche alla mia storia, per cui insomma c'è anche quello. Poi di italiani, La voce del padrone di Franco Battiato. Bene. Che sicuramente Battiato, insomma, del grande successo praticamente. Sì, non è Battiato sperimentale. Sì, però lui lì secondo me ha fatto l'operazione proprio intelligente. Certo. Cioè, nel senso, è un disco di grande successo, ma un disco di enorme qualità. Ah, beh, chiaramente. Innegabilmente. Sì, indubbiamente. Per cui è un bel esempio di come si possano fare cose di successo, cioè canzoni con di successo, con intelligenza. Certo, certo. Senza problemi, cioè senza problemi, bisogna essere Battiato. L'unico problema è questo. Poi, vabbè, insomma, mi piacciono meno le cose che ha fatto ultimamente. Proprio c'è sempre qualche, però, in tutti i dischi di Battiato, anche se non sono bellissimi, c'è sempre qualche pezzo che ti lascia il segno, c'è poco da fare. Non so se sei d'accordo. Sì, qualche momento, qualche pezzo. Battiato, cioè, l'ultimo Battiato, chiaramente. C'è sempre non... una ricerca. C'è sempre una ricerca, questo comunque, è importante. Comunque appartiene a quel genere di persone, probabilmente musicisti, che sono sempre un po' alla ricerca di qualcosa, si denota. Quindi puoi anche sbagliare, non esiste un errore. Puoi anche fare una cosa che magari non arriva a tutti, o non arriva insomma a chi deve arrivare. Però si denota questa ricerca e secondo me è sempre lodevole. Quindi ne manca ancora uno. Quindi mancano due. Mancano due. Due, hanno preso nota loro, hanno preso nota. Altri due, cinque è difficile in effetti. Allora, Melancholy e Infinite Sadness degli Smashing Pumpkins. E poi, allora, dalla regia mi suggeriscono Ten dei Pearl Jam. Perché no, certo. Però io ho questo... Che punto. Non è il disco amatissimo da No, Damano. lo ami particolarmente. Dice, Marco lo ama particolarmente. Ten di per sé. Secondo molti, io dico molto tra virgolette, è il disco più bello che hanno fatto, anche se non è vero, sì. Probabilmente. Però è il disco più bello, più significativo. Poi hanno cambiato sempre loro, cambiato. La bellezza di Ten è nella spontaneità. Esattamente. Nell'esserci arrivati in qualche modo, almeno questo sembra. Con enorme spontaneità, in qualche modo aver riscoperto dei valori che c'erano in America, averli riportati insomma al grande pubblico in maniera intelligente, insomma. Esatto, con il tempo però, no? Il successo è stato graduale. Sì, poi ce ne sarebbero altri mille, sì, ma cinque sono sufficienti, perché il tempo è con poco. Con questi cinque si può già iniziare. Si può andare a sentire qualcosa di positivo. Facciamo un flash con i tuoi amici, allora vai al microfono, ok, e ti do la cuffia. Sei. E puoi parlare direttamente. Sì, buonasera a tutti. Io sono Nicola, sono un amico di Pier da anni. E l'amicizia è nata con la musica. Per la musica eravamo a cena, non ci conoscevamo fino a due secondi prima. E i primi scambi subito con la musica. Vedi, cosa fondamentale. Ed è nato un feeling, un affetto col tempo che dura tuttora ed è sempre più forte, che va avanti. Sì, esatto, è potrei dire che è mio fratello, senza ombra di dubbio. Sì, sotto tantissimi confermo aspetti. Allora, cosa scegli musicalmente, che cosa scegli? Pier Paolo ha scelto 5 dischi. La regola ferrea di questo programma è non si può copiare. Ah, ecco, oh Madonna. Quindi, devi citare altri personaggi. Sì, benissimo. Allora, altri personaggi o altri album? Altri album all'inizio. Esatto, perché i personaggi sono quasi simili. Ok, altri ecco, album. Allora io mi porto come primo Actum Baby degli ultimi. Degli quindi due. Siamo un po' di anni dopo, certo, Joshua certo. Tree. Mi porto anche io Pink Floyd. E visto che lui ha preso Dark Side of the Moon, io mi prendo Animals. Benissimo, un album che ha avuto sempre delle critiche un po' contrastanti. È amato o odiato? Sì, io lo amo per la sua la stranezza, sì, se lo associo, se lo contestualizzo negli anni, è una magia quell'album lì. Terzo album, mi porterei qualcosa, insomma, più che album, album per forza o anche singolo? No, anche singolo, qualcosa che... Heroes di David Bowie. Ah, bello. Adesso è uscito, sì. Sta uscendo, sì, un nuovo disco. Il giorno del suo compleanno è uscito, esatto, il suo ultimo singolo. 15 marzo esce il nuovo disco dopo tanti, esatto, anni, esatto, e tutti siamo, esatto, in attesa, esatto, eccetera. Marco, sei in attesa? No, non sei in attesa del nuovo album. Io aspetto il nuovo di Sonic Youth. È quello, sì. Poi per Jam lui ha citato Ten, sì, che io l'ho suggerito dalla regia. L'hai suggerito dalla regia. Mi sono dato la zappa sui piedi, insomma, esatto, perché l'avrei voluto portare io. Ma porto l'ultimo album, Backspacer, che ho apprezzato pochissimo all'inizio, ma con il tempo poi, esatto, lo, ti ha preso. Lo amo, sì, esatto, me lo porto senz'altro. Siamo a 4, ne manca ancora uno. Ne manca uno. Chi ci possiamo portare? Pier, suggerisci. Depeche Mode. No, più che Depeche Mode, chi mi porterei? Ecco, dopo aver citato Pink Floyd, U2, per Jam, e qui, Queen. Ah, Queen, benissimo. Sì, Queen, perché, insomma, non si può fare, non si può prescindere. Ecco, da io Queen, questa la boccio. La boccio. Lo so, Freddie Mercury so, non lo ami lo so, particolarmente. Lo so, lui non lo ama, lo so. Però è... tantissime pagine di storia della musica le hanno scritte loro, sì. Quindi me li porto con me, okay, sull'isola. Sì. Tocca a te adesso. Avvicinati al microfono. Sì. Ma io porterei Dummy dei Portishead. Dimmi. Dummy dei Portishead. Ah, bene, Dummy dei Portishead. Sì. Io sono un po' più posso dirti... un po' più English. Sempre un po' più English. Beh, posso dirti che in tutte le nostre peregrinazioni per la scelta dei dischi, pochissima gente ha scelto i Portishead. Pochissime, dammi un disco e non hai ancora sentito gli altri, un disco epocale per quelli che amano un certo genere. Avvicinati. No, poi porterei, che ne so, David Sylvian, abbiamo citato precedentemente, chiaramente io appoggio tutta questa scaletta, sì, ma molto bello, molto positivo, ma anche gli altri. poi cosa potrei portare? Porterei Lotus Eaters, per chi se li ricorda. Ah, i Lotus Eaters, te li ricordi, Marco? E tutti quanti, te, chiaramente, Margherita, possiede tutti. I miei cari amici che sono andati a vedere anche a Tokyo. Sì, li hai visti a Tokyo 2 anni fa? Sì. Cosa ti è sembrato? A cena ci stava raccontando questa aneddoto. Cosa ti è sembrato gli Lotus Eaters 2 anni fa a Tokyo? Ah, sono ancora... Vivi e vegeti? Sì, sì, sì, sì, sì. Ancora... Sono in acustico, ovviamente, adesso, mentre all'epoca avevano, raccontavo prima a Paolo, nella band originaria c'era anche come bassista Mike Dempsey dei Cure. Esattamente. Dei Imaginary Boys. E poi cosa porterei? Ce ne sono 1000, ma... Ancora 3 ne hai da scegliere? Sì. Due. Che, quello che ascoltavo in macchina prima, Kate Bush, The Hounds of Love. Ah, bello, ottimo. Un po' di cosette... Cioè, molto british, sì. Sì, sì, sì. The Smiths. Decisamente british. Beh, quindi The Queen is Dead, degli Smiths. Bello. Poi cosa ci mettiamo di recente? Bah, Tuck dei Sigur Rós. Ecco. Quello non è british, ma quasi. Sì. Sigur Rós. Ma quasi. Volevo dire, ecco, The Bunnymen, ma molto... anche quello era molto british. Bella bene. Scaletta, direi, bene, insomma. Bene. Possiamo... Tra Inghilterra e America. A parte Queen, I Queen. E ci sono anche qui. Posso cambiarli con i Rolling Stones, se vuoi, Pier. Facciamo con i Rolling Stones. Grazie, Nicola. Benissimo, sono le 23:17, quasi 18. Suoniamo un altro pezzo, Pierpaolo. Ci facciamo un altro pezzo intorno a questo ipotetico fuoco. Questo ipotetico acceso. Abbiamo anche, insomma... abbiamo dato... l'atmosfera giusta. Esattamente. Insomma, perché è giusto... sì, ma è giusto citare i protagonisti di certi amori, perché certi amori contribuiscono a fare l'insieme della musica, poi, secondo me. Hai ragione, esattamente. È una ricerca, ma è anche poi un prendere da quello che è stato, certo. Mettere insieme. Prendere quello che è stato vuol dire non prendere, ispirarsi, prendere qualche flash, esattamente. Ti entra dentro. Esattamente, ti entra dentro. Cioè, dentro. Quindi facciamo un pezzo acustico questo. Certo, punto. Certo. Allora, io suono Noi qui di nuovo, con la speranza di ritrovarci qui. Magari con i Plissken, perché no? Ah sì, certamente. E quindi noi qui di nuovo. Perfetto. Qui a Radio Blu. A Blu Radio Veneto. Veneto. No. Sì, questo pezzo io l'ho scelto per dare un lancio al disco. A me piaceva molto, una ballad, secondo me era una ballad di un certo spessore. Ripeto, l'ho sentito sempre nella versione acustica e mi è piaciuto particolarmente. Io, Alberto Prisco, che salutiamo, il nostro direttore artistico, lo ringrazio. L'abbiamo voluto per un programma che facciamo tutti i giorni di sera tarda, e che va in onda, quindi per un mesetto va in onda questo pezzo, che non è il singolo. È brutto dire il singolo, è un pezzo che a noi è piaciuto, basta. Guarda, hai appena detto una delle cose che a me piace di più, cioè per me la radio bisognerebbe farla così. Tra l'altro ho fatto anche io in radio tanti anni fa. Bene. Un programma che si chiamava On the Road. Ottimo. Che è stato un po' anche il nostro motto per tanti anni di viaggi. E io, per me non esistono i singoli, cioè questa è un'invenzione chiaramente commerciale. Commerciale. Per cui tutti sono potenziali singoli. Ognuno dovrebbe sviluppare un proprio gusto, per cui... chapeau a tutte le radio, insomma, che in qualche modo si scelgono il proprio singolo. Sì, sì, tant'è vero che per Polvere, quando abbiamo insomma dovevamo decidere insomma qual era il singolo, alla fine per il web c'era I Silenzi, per il video Sogni e Segni, questo già dava un po' la dimensione, no? Poi c'era la versione acustica, la versione domo, poi nei concerti ne faccio altre con la chitarra acustica e altre. E cosa, nei concerti ne fai altre? Che versione dai di questo pezzo nei concerti? Allora, con la band lo dai una versione chiaramente elettrica? Negli ultimi concerti, insomma, che stiamo facendo quest'anno, è una versione intima, però con un finale che esplode. Quindi che dà un certo peso. Sì, in stile ballad, con l'aggiunta della viola. Insomma, e quella dà un certo peso. La viola, secondo me, è proprio la parte orchestrale in tutto questo disco ci sta. Insomma. Perché hai scelto la viola? La viola è uno strumento malinconico, ma allo stesso tempo dark in alcuni momenti. Se mi è consentito il termine. Sì, allora io sono un polistrumentista, quindi mi sono divertito a suonare un po' di tutto. Gli unici strumenti che proprio non riesco a... cioè non mi piacciono. Gli archi? No, sono gli strumenti a fiato. Gli archi li puoi siamo suonare. In sintonia. Ah, perfetto, suoni per cui tutto. Il violino, la viola, il violoncello, insomma, mi piacciono proprio. Sono dei, insomma, dei strumenti a corda, per cui in qualche modo... evidentemente mi piace quando si tocca la corda. I fiati no. I fiati, no, che, cioè non mi piace suonarli, mi piace ascoltarli. Ho capito. Per cui, forse non l'avevo detto bene prima. No, insomma, preferisco ascoltarli, insomma, ecco, non mi sono mai cimentato, che ne so, col sax, piuttosto che con la tromba. Preferisco gli strumenti a corda. Bene. O gli strumenti ritmici, come la batteria, insomma, certo. Tutti gli strumenti cordofini, diciamo. Per cui evidentemente non so, è una questione proprio di stato d'animo, di propensione. Sicuramente le viole, gli archi, insomma, mi sono sempre piaciuti. Cioè, quando ascoltavo i pezzi di musica classica, anche da piccolo, il classico concerto di Natale, no? Sì, che fanno, certo. Quando la Rai, insomma, ma anche adesso probabilmente, anche se io non guardo più tantissimo la TV. Insomma. La TV. E ricordo che proprio mi rimaneva in testa poi per tutta la giornata il suono dei violini, della viola, del violoncello. E poi sì, un po' probabilmente questo ripescare un po' questi strumenti che poi devo dire negli ultimi anni, cioè le ultime generazioni lo stanno facendo. Sì, certo. Quello di riprendere un po' degli strumenti antichi e di ridargli una nuova luce, sempre per quel senso, diciamo, di riscoprire, di riportare. E quindi riportare sul palco, insomma, strumenti che oggi sono meno pubblicizzati, no? Cioè, noi abbiamo l'immagine del ragazzo con la chitarra, con la sua Gibson o la Fender Stratocaster, che si fa il suo assolo, insomma. Invece io trovo molto, molto bello anche quando qualcuno mi dice: no, io suono la viola, il violino. Perché sono strumenti, cioè significa anche un po' uscire fuori dal coro. Una volta c'era Jean-Luc Ponty, che era famoso, ti ricordi, no? Che mischiava il rock al classico. Il classico, sì. No, beh, di esperimenti sì, ne sono stati fatti tanti. Devo dire che insomma anche gli stessi Sonic Youth che abbiamo citato prima, o i Sigur Rós, hanno introdotto insomma elementi. Io, per tornare indietro, i Cool With Air. Quello suonava le viole pazze di Cool With Air, quindi Sonia e Cristina, cosa meravigliosa. Si parla degli anni 70, fine anni 60, inizio anni 70, sei d'accordo? Sì, qui è d'accordo, ma ha detto di sì. Noi apprendiamo con reverenza. No, beh, in realtà bisognerebbe fare anche un lavoro di riscoperta, probabilmente, certo. di tanta qualità. A me fa ridere a volte quando alcuni critici, no, dicono che non ci sono, cioè in Italia non c'è mai nulla. Poi in realtà dagli anni 70 ad oggi sono uscite tantissime di quelle cose. che dico forse un po' più di entusiasmo, mi domando e dico un po' più di entusiasmo nell'andare in giro, ascoltare, nelle è locali, difficile per... ricercare oppure insomma parlare con entusiasmo, insomma, di... perché già qui questa sera abbiamo citato nomi internazionali, ma insomma potremmo citare anche cose meno in vista, certo, e per cui ecco, io visto che ho un microfono davanti, come no? Poi, tu hai citato, mettiamoci un po' di entusiasmo quando tu hai citato le penne del rock. Tu hai citato gli anni, cioè abbiamo citato parecchi gruppi, il grande ritorno del prog italiano, quindi adesso sono rifornati, non è che si siano riformati, c'è un amore, un ritorno di amore per il prog, quindi tanti gruppi storici che rovescio la medaglia, non so, ricevuta quella comandata di ritorno, i Delirium, i New Trolls, eccetera, parecchia gente che poi in Giappone sono amatissimi ancora, no? È così, tu sei infatti, stato in Giappone, poi Fabio ben testimoniato. È stato in Giappone, può testimoniare, forse vuole anche tornare. Per cui, c'è proprio un grande ritorno, ma è bello che sia così, musica è bella tutta, dal punto di vista si prende, si ascolta, è bella tutta, c'è poco fa. Infatti io penso in questo valore, no? Se si potesse, insomma, se fossi insegnante di musica alle scuole medie, visto che si fa ancora. Sì, si fa ancora. Cioè, sarebbe interessante, insomma, insegnare, cioè far ascoltare musica, più che suonare il classico flauto, la diamonica. Cioè proprio andare lì e invitare magari ecco degli speaker radiofonici che hanno insomma una cultura d'ascolto, a portare insomma che ne so, un contributo, ascoltarli insieme, scoprire vari generi di musica, certo. Probabilmente insomma saremmo un'azione un po' più più attenta, no? Un po' più più sul pezzo, sui pezzi anche. Benissimo. 23 e 28, quasi 29. Abbiamo in scaletta un pezzo del demo, dell'album elettrico, o no? O sbaglio? Sì, piacerebbe farvi ascoltare la versione domo di La carne del tempo. Ecco, è un pezzo che abbiamo citato prima. Sì, insomma, è un pezzo che è significativo. Interessante. Dai. Cioè, io ci tengo particolarmente. Ci tieni particolarmente. Insomma, poi è uno di quei pezzi che anche quando suoniamo dal vivo ho la sensazione, io e anche chi suona con me, che insomma quando finisce proprio si crea una sorta di magia tra noi e il pubblico, e per carità ci sono anche gli altri pezzi, però La carne del tempo proprio ha una sorta di tiro che inizia quasi un po' in maniera distratta, cioè uno che inizia a prendere una chitarra, inizia a cantare, inizia a fare due note, inizia a raccontare una storia, quindi ora qui tutto si muove e transita dai nostri corpi, quindi è la storia che passa attraverso il corpo di quelle persone e inizia a raccontare, insomma, fino a diventare sempre più intima, sempre più intensa, per cui vedi proprio le facce che si spostano. La sentiamo prima dal disco allora? Sì, la sentiamo perché dopo disco, poi magari la facciamo e appunto il discorso era questo, dopo la fai dal vivo, certo. La sentiamo dal disco adesso. Rock Wave. A settembre in barco palestra. di volte abbiamo contenuto il tempo ed il tempo ci ha contenuto, dove la notte incontra le stelle, dove la polvere diventa tempo, dove il tempo incontra le nostre radici. Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, abbiamo sentito quindi La carne del tempo, perché è un pezzo che ha scosso positivamente tutta la critica. Io ho letto parecchie recensioni del disco, tutte positive, ma particolarmente positive in questo pezzo. Secondo te perché, Pierpaolo? Insomma, meno male, intanto, perché insomma ci tenevo particolarmente. Tu ci tenevi particolarmente? Sì, e la gente l'ha capito. Allora, la carne del... Sì, devo dire che anche nei live, anche insomma in quello che mi arriva, insomma, da chi mi ascolta, insomma, effettivamente La carne del tempo, probabilmente un po' tutti si sono resi conto che è un pezzo su cui prestare attenzione. Ma io ci tengo particolarmente perché intanto c'è un po' metà del concetto del disco, se vogliamo. No, ci sono delle frasi che esternano questo concetto. Sarebbe proprio da leggere. Siamo ricorso alle nostre lacrime inseguite. Inseguiti dal tempo che passa e mossi dall'ardore abbiamo bevuto. Fino a che l'alba non ci ha visti di nuovo ridere. Quindi c'è sempre un po' questo concetto di... Cioè che nella vita c'è sempre una seconda opportunità, c'è sempre un'alba, no? C'è sempre una... ci si rialza, insomma. Se si riesce a rialzarsi, insomma, in qualche modo. Si va avanti. E poi vabbè, il tempo è polvere, la polvere è la carne del tempo, perché quel concetto della dimensione del tempo che passa, che si deposita e diventa quasi massa, è quasi fisico. E poi, non so, l'amore in fin dei conti è ciò che rende privato l'infinito, che è una frase che almeno per me è uno spazio proprio, cioè io me la immagino proprio pronunciata, spero di suonarla un giorno davanti al mare. Certo. Quell'orizzonte che mi sorride che è proprio un inno d'amore, insomma, se vogliamo, cioè, poi ogni mondo, ogni persona ha un mondo, e in quanto tale, insomma, è portatore sano di amore. Questo, insomma, poi è incredibile come sul silenzio si riescono a dire tante cose, visto che il protagonista partiva da una forma di silenzio. Esattamente. E invece lui nel silenzio invece riscopre tanti concetti, quindi il silenzio se ne sta, infatti la frase dice: incredibile come sul silenzio si riescono a dire tante cose mentre lui se ne sta zitto. Una sorta di dialogo con se stessi, quindi quasi con una forma fisica del silenzio, dove appunto lui è lì che ascolta, no? E in qualche modo noi cominciamo a dire le cose che vorremmo dire, e poi la prima e l'ultima parola che è ora. Per cui diciamo ora, perché c'è l'urgenza che dopo tutto questo narrare transita dai corpi e diventa ora chiaramente. Ricordo che state ascoltando Rock Wave stasera live, stasera abbiamo per Paolo Lauriola, stiamo presentando Polvere, e non soltanto Polvere. Dimmi. Sì, no, volevo anche salutare Giuseppe Biancofiore. Esattamente, salutiamo tutto quello che vuoi. Dimmi. Che è l'autore della copertina del disco. Certamente, a proposito della copertina del disco, adesso mi devi dire dove possiamo trovare sia il disco acustico sia il disco elettrico. Ok, allora, il disco lo si può reperire su iTunes, per esempio, oppure su Deezer, su Amazon. Tutti i portali. E un po' tutti, diciamo, i distributori di musica digitale. Poi, per carità, vale sempre il concetto, mandatemi una mail, vi rispondo sicuramente. Anche ai tuoi concerti, chiaramente. Insomma, ai miei concerti, sì, insomma, è la maniera classica, insomma, devo dire che è bello. Cioè, all'inizio, tanti anni fa, era una cosa che si vedeva un po' con terrore, no? Quello di vendere i dischi ai concerti. Adesso è diventata una cosa... Adesso è l'unico modo per vendere i dischi. Adesso è l'unico modo, per in qualche modo. Ammetto che è stato emozionante quando abbiamo avuto il CD fisico in mano, no? E con Giuseppe. Giuseppe era a Milano e io ero giù in Puglia, no? e mi ha mandato subito una foto, la prima copia del disco, in effetti l'ha avuto lui in mano. Ed è stato bello perché io sinceramente amo gli LP, cioè non il CD. Ma tu non hai stampato un LP però? Non ancora. Non ancora, però l'idea è quella. Io in realtà, cioè nella mia testa c'era l'LP, infatti io lo vedo ancora come un disco doppio. Con la bella copertina che si apre, eccetera. Sì, con la foto. Quello ci siamo una volta, bella. Per chi avrà il piacere di comprarlo, insomma, noterà che in realtà poi è studiato un po' come un LP, perché c'è questa foto un po' alla Rattle and Dumb. Esatto, sì. Con i due dischi dentro, con i testi impressi nella carta che ricopre il disco, quindi tanto profumo di carta, una bella confezione. Sì, tra l'altro il mastering di questo album è stato fatto da Alberto Cuto, che insomma è un tecnico del suono molto, molto in gamba, che ha lavorato per tantissimi anni proprio nella registrazione degli LP, tra cui Violator di Depeche Mode. Ah, quindi mica un disco qualsiasi. Tra le varie cose. E poi vabbè, Litfiba, certo, tante altre cose interessanti. E una cosa che è venuta fuori durante il disco, perché io non sapevo di questo, ma nella fase finale proprio, certo. Lui si è divertito, insomma, a raccontarci, c'eravamo io, Giuseppe e Gianluca, in studio con Alberto, e lui si è divertito proprio a raccontarci questi aneddoti di come si registravano i dischi una volta, di come si pesava, no, il disco, di come si calibrava la grandezza del solco. Per cui, cioè, mentre lui parlava, io mi immaginavo, insomma, di come potesse essere anche bello proprio produrre un LP. Per cui, insomma, io spero di dare i Natali alle stampe anche un LP prima o poi, per carità, mi piacerebbe tanto, sì. Io me lo sono immaginato come un disco doppio, perché la versione demo, giusto per tornare un po' a quello che ci siamo detti all'inizio, la versione demo nasce anche dall'esigenza di far capire anche un po' come è nato il disco. Cioè, è nato così, poi alla fine è diventato questo. Cioè, è un concetto che probabilmente per chi ascolta non sempre interessa, però da autore, a me, io quando ascoltavo gli album, mi affascinava tantissimo. Ad esempio, Melancholy and Infinite Sadness, che è un disco che io adoro, quando ho scoperto che esisteva come bootleg ai tempi, poi adesso si trova anche su YouTube, che esisteva una versione suonata interamente da Billy Corgan con la chitarra acustica, tipo come stiamo facendo noi stasera. Cioè, io proprio ho fatto di tutto per reperirlo, e quando l'ho ascoltato devo dire che, insomma, è stato un aggiungere, cioè, come è nato il disco fondamentalmente, con una chitarra, con la voce, insomma, con scheletrico, con, tanti errori anche con tanti errori di cantarlo. Insomma, a me piacerebbe se si tornasse un po' a questo aspetto appunto biologico, naturale, nel senso, discorso biologico, nella versione Domo per esempio c'è, c'è Ci consumeremo in un abbraccio, dove io poi di proposito ho lasciato la voce un po', diciamo, flebile. Proprio perché volevo dare quella dimensione naturale di come era nato il tutto, insomma, perché cioè, ormai siamo nell'epoca di Pro Tool, di Logic, è un attimo, cioè, chiunque si occupa di tecnica sonora, insomma, sa benissimo che produrre un disco perfetto è praticamente possibile tranquillamente. Quindi proprio per questo Imperfetto. Lo volevo imperfetto. Mio padre, che è un ex agricoltore, mi ha insegnato che i pomodori buoni non sono tutti uguali, sono tutti diversi. Chiaro. In un campo. Cioè prendi un ettaro, due ettari, tre ettari, sono tutti diversi. Per cui quelle cose in serie, no? Per cui io farei anche tipo 100 copie diverse dei dischi. Ho capito. Cioè, la natura è così, insomma. Certo. Benissimo, adesso suoniamo che cosa, Pierpaolo? Adesso facciamo Io brindo. Io brindo. Io brindo, che è una canzone un po' più scanzonata, se vogliamo. Io l'ho immaginata. Allora, questo qua l'ho immaginato come mio nonno che tornava dalla guerra e nel tornare, insomma, in qualche modo organizzava una tavolata dove appunto brindava al suo ritorno. Quindi. Poi in realtà nella sfera del disco ho preso un'altra piega, diciamo, e quindi si è allargato un po' il concetto, nel senso, non volevo dargli un connotato troppo specifico a una persona in particolare, ci sarà tempo per quello. E quindi ci sono altre composizioni in quella direzione, per cui io brindo un po' una sorta di atto positivo delle persone che insomma brindano, di solito sono sempre delle persone che in qualche modo stanno esorcizzando il dolore e stanno pensando alla speranza di qualcosa di bello e futuro, no? Quindi visto che siamo in un'epoca dove ci viene sempre più difficile pensare al futuro, proviamoci almeno, giustamente. Brindiamo e fantastichiamo un ipotetico futuro. Ok. Io brindo. Ti dividerò con te i passi, le ore e le parole, un nuovo viaggio, un nuovo giorno, nel nostro camminare insieme. C'è un fiore, trionfa l'amore, cresce un'emozione, con in mano un bicchiere di vino, brindo e riprendo te, brindo il nostro amore, con sguardo puro, il cuore contento, brindo i giorni che ci hanno dato la vita. Se vale la pena rischiare, io mi gioco anche l'ultimo frammento di cuore. Sboccia un fiore, trionfa l'amore, cresce l'emozione, con in mano un bicchiere di vino, prendo e riprendo a te, brindo al nostro amore, lo sguardo puro, contento, brindo ai giorni che ci hanno dato la vita. Io brindo, sì, vivace fino a un certo punto, però assolutamente fino a un certo punto, nell'ottica della vivacità, però c'è sempre un pizzico. Siamo intimisti. Siamo intimisti, è un pizzico di malinconia. Una versione, diciamo, vivace, appunto. Ma c'è un pizzico di malinconia, certo, come tutte le cose belle, forse. Beh, le cose belle possono essere anche malinconiche, chiaramente. Perché no? Cioè, certo. Forse spesso la riflessione parte, no, da un atto di disagio. Mm. Per cui. Cioè, non è sempre vero, però spesso è così. Per cui, diciamo, perlomeno dai là. Accorda, diciamo, i sentimenti su quelle, si accorda i sentimenti su quelle tonalità, poi dopo si può decidere, insomma, di farli prendere un'altra piega. Si accorda i sentimenti sulle tonalità, e tu hai detto una bella frase proprio di tonalità. Come gli hai accordato dal punto di vista mentale le tonalità? Come sei riuscito a trovare l'input a tutto quanto, visto che hai suonato 90% te? Allora, tutto l'album Polvere, anche a livello di composizione, è fatto proprio dall'inizio alla fine come se fosse quasi un disco di musica classica, se vogliamo. Cioè, nel senso che proprio anche a livello di tonalità, proprio armoniche musicali, quindi si parte in un Mi maggiore e si finisce con un La. Però tutti i cambi, anche la scaletta, no? Sì. Così come è stato scelto, quindi l'idea di mettere i silenzi e poi subito dopo La carne del tempo, è una scelta che è legata sia alla storia ma anche alla musica. Alla musica. Per cui, diciamo, si parte con Mi minore, poi il pezzo si evolve, finisce Mi minore, si riaggancia con un La minore di La carne del tempo e continua. Quindi non è una cosa semplice, l'hai studiata attentamente. Sì, e poi, per esempio, La carne del tempo è un pezzo. Purtroppo nessun critico l'ha scritto, però lo diciamo questa sera, magari ci coglie. È un pezzo diviso in tre parti, dove ci sono proprio tre tonalità. Cioè, c'è una prima parte che inizia in La minore, poi il pezzo si evolve, si insomma, evolve, c'è una parte dove cambia, diventa tonalità da Do maggiore e poi scende in Mi minore. Ah, ho capito. E quindi tre colorazioni diverse. Tipicamente, insomma, nella musica leggera non esiste. Non esiste, nel senso che in genere si segue quattro quarti, sì, un giro di Do piuttosto che, insomma. Mentre qui c'è anche questo tipo di studio. Ad esempio, Ci consumeremo un abbraccio, un terzinato, quindi tre quarti, quasi un valzer, cioè si potrebbe suonare come un valzer, tranne il ritornello che torna sui quattro quarti. L'alternativa, c'è il suo momento di Mi minore, poi un cambio in sette quarti. Quindi anche da un punto di vista compositivo, insomma, non è mica semplice, non è semplice. È stato studiato per rispettare, attentamente studiato, il dolore che è sincopato, perché magari la felicità è più lineare, no? Noi ragioniamo in quattro quarti probabilmente, no? Certo, quando parliamo abbiamo questo ritmo molto, invece nel dolore ci fermiamo, no? Perché c'è il singhiozzo magari del pianto, della riflessione, per cui diventa sincopato. Quindi proprio a livello compositivo ci sono anche dei tempi composti nell'album. Bene, una spiegazione abbastanza complessa, ma abbastanza semplice, complessa e semplice nello stesso tempo. Cioè, la gente ha capito il mio ruolo da training, ha capito proprio all'interno della costruzione di una scaletta. È una bella cosa questa, sì, diciamo, me. A me piace lavorare con cioè che ci sia un progetto, lavorare per una parola, insomma, che può avere anche il suo fascino, insomma, in un certo senso. Però diciamo che nell'ottica di fare il disco mi piace l'idea che sia tutto studiato nei minimi dettagli, e appunto i dettagli, cioè è lì la differenza, insomma. Questo Polvere è anche questo, anche questo. Adesso sentiamo il pezzo che abbiamo detto, sì, quel dal Do, dall'elettrico praticamente, dalla Domo Version. Allora, sulla Domo Version dico due parole ancora. Vai, nel senso che eravamo in macchina con Giuseppe Biancofiore, a un certo punto ci siamo detti: ma come la chiamiamo la versione Domo, insomma, Domo la versione elettrica, elettrica. Sì. Allora, parlando, insomma, tiriamo fuori questa storia, in particolare lui, insomma, del Domo. Domo perché Domo, da Domus, quindi da casa, casalingo, sì. Proprio perché c'era questa definizione di musica casalinga. Sì, perché l'hai fatta a casa praticamente. Semplicemente a casa. Esattamente. Ok, la sentiamo. Buon ascolto. Rock Wave Live. Che cadono e diventano polvere. tempo è polvere, e la polvere è la carne del tempo. L'amore è il fin dei conti, è ciò che rende privato l'infinito. Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Eccoci qua, abbiamo sentito la versione elettrica, però una versione elettrica molto d'atmosfera. Cosa dici, Pierpaolo? Sì, perché proprio tutta la versione domo. Mm. Domo, insomma. Cioè casalinga, dai. Casalinga. Domo, vuol dire casalinga, domus. Sì, tutta la versione casalinga, diciamo, è molto più eterea. Mm, più molto eterea. Chitarre sì. lunghe. Sugar chi... Ross tu hai citato sì, sì, e perché dopo, conosce, dopo... Ecco, mm. perché mi conosce nella, nella parte anche live sa che mi piace insomma, mi dicevi una cosa microfono spento nella parte live queste chitarre si incrociano Sì, perché nei live chiaramente non c'è solo la parte acustica, insomma, c'è anche la parte elettrica, quindi insomma c'è tutto il setup legato ai delay, insomma tutte le mie sonorità tipiche che mi porto dietro da anni, insomma, per chi conosce, insomma, sa cosa la tua storia. Suoni lunghi, insomma, questi la maniera, insomma, di utilizzare il suono. Io sono molto attratto anche dal suono, ecco, non... Polvere è probabilmente è stato uno studio, almeno nella versione acustica si dovrebbe denotare maggiormente la parte compositiva, come ne abbiamo parlato prima, o del testo, insomma, perché anche le parole, per esempio, hanno la loro timbrica, sono state studiate per gonfiare nell'apertura di alcune strofe piuttosto che in altre. Sono anche una sorta di rap in alcuni casi, tipo sogno e segno. Fondamentalmente ci sono tre note che si ripetono, quindi diremo un loop, anche se è suonato in maniera acustica. E poi c'è la voce che non si ripete mai, c'è sempre un crescendo di armonie, quindi non ha un ritornello subito, anzi ce ne ha solo uno, poi c'è un bridge con un narrato in inglese, e poi c'è di nuovo una chiusura, insomma, per cui destrutturalizzare anche un po' la forma classica di cantautorato, nel senso, insomma, se c'era bisogno. Io l'ho pensata così, ecco, poi insomma, visto che molti critici dicono che non c'è mai nulla di nuovo di nuovo e allora insomma, basta ascoltare. A proposito di critici, ripetendo quello che abbiamo detto prima, cioè io ho letto parecchie recensioni, tutti ti hanno apprezzato, e questa è una cosa positiva, secondo me. Meno male, insomma. Cosa estremamente positiva. Bisogna dire, cari ascoltatori, non è un disco facile, è un disco da sentire, da ascoltare con attenzione, sia nella parte acustica sia nella parte elettrica. Bisogna ascoltarlo, come tutti i dischi. Se si ascolta si capisce, se si ascolta così frettolosamente si passa sopra, ma non è giusto nei confronti dell'artista, secondo me. Esatto, ti ringrazio per averlo detto, insomma. Allora, adesso siamo quasi alla fine e sono 23:58, questo è lunghissimo, questo bel viaggio. No, ci dobbiamo sommare, non mica finito, dobbiamo sommare. Adesso ripetiamo le date che hai, ecco. Quello è importante. Allora, la prossima del 2 marzo al Spazio Teatro 89, Milano. Come, che in dimensione? Come no, dimensione con la band. Con la band. Queste che sto presentiamo... dicendo, cioè io adesso dirò solo date con la band. Siamo con la band, sì. Anche perché io poi ho un portale www.pierpaoloriola.it dove c'è scritto tutto. Dove c'è scritto tutto, lo aggiorno. È nato come blog nel 2007, dovevamo scrivere insieme con altri amici un romanzo corale che si chiamava Il Trolle di Cartone. Così gli amici sono qua presenti? No, tutti presenti, ma dall'altra parte. Dall'altra parte, ti stanno ascoltando, bene. Li salutiamo tutti, li chiaramente. Salutiamo tutti. E, per cui dovevamo scrivere un po' alla Luther Bliss. Ah, no? Ho capito. È nato così. E poi per parlare, insomma, della musica che ci piaceva, insomma, che ne so, vai a vedere una mostra, sì, e ne parli. Su quel sito c'era anche l'ultimo concerto della Cruz, dove raccontavo, insomma, di questa bellissima serata, cioè triste ma bella. Sì, perché era l'ultimo dove si sono sciolti. Sì. Insomma, c'erano tutte una serie di cose interessanti. E poi è diventato man mano il mio sito, insomma. Certo. Oggi c'è un tratto più della mia carriera, diciamo, ecco, quindi parlo delle serate, insomma, sì, ci sono foto di serate, ci sono i link al download del disco di Pliskin, allo streaming di Polvere, al video di Sogni e Segni di Giuseppe Biancofiore, tutta la parte fotografica, insomma, quindi tutto il contorno che va, sì, i testi ad esempio, testi. C'è un approfondimento, ecco, insomma, c'è, volendo, insomma, sul sito, per cui diciamo la parte da seguire per i live è quella. Poi vabbè, insomma, il classico link a Facebook, sia la pagina artista che la pagina personale, sinceramente va bene anche darmi l'amicizia, insomma. Quindi se uno vuole tecnicamente, fisicamente il disco, scrivi a te, manda un'email. Il disco si può trovare in questo modo, o su iTunes, o su Deezer, o su altri distributori di musica digitale. Si chiama Polvere. Si chiama Polvere, Pierpaolo Oriola. Pierpaolo Oriola. Oppure a Milano ci sono alcuni negozi di dischi che lo vendono, zona Navigli, insomma. Poi sul mio sito c'è scritto, insomma, esattamente chi lo distribuisce ancora. Mandandomi una mail va benissimo. Vedendoci ai concerti, oppure se sono di passaggio in una città, perché no, facciamo lo scambio. Certo. Anche quello va bene, direi, visto che viaggiamo tanto, insomma, tutto sommato penso che posso fare anche da postino. E questa è la maniera per trovarlo. Quindi le date, dicevamo, quelle con la band, 2 marzo Spazio Teatro 89, il 23 marzo alle Scimmie sul Barcone, che è uno scenario abbastanza, insomma, suggestivo, sì, sulla barca del Naviglio, e in acustico, quella, sempre a Milano, con la band, comunque, cioè quando dico in acustico comunque è sempre con la, con band. La band, sempre a Milano, questo sempre a Milano. E poi sono previste, insomma, altre date, tipo a maggio faremo Maggio Baggio, il 26 maggio, non abbiamo ancora esattamente chiaro quando suoneremo all'Old Fashion, ma credo intorno al 20 aprile. Probabilmente ci sarà anche Roma e la Puglia, insomma, più verso l'estate, verso, quindi ci saranno altre date, insomma, sì, qualche festival, insomma, abbiamo spazio, insomma. Cioè, sì, io poi cerco di laddove è possibile, insomma, di privilegiare, di non fare tantissimissimi live, nel senso, la mia storia è che ho fatto tanti live, sì. Io ho fatti anche più di 300 di quello che dice la biografia, in realtà ne ho fatti anche di più. Nell'ultimo, diciamo, da Polvere in poi, in realtà c'è stata una controtendenza, nel senso che cerco di farne, sì, tanti, ma mirati. Cercando anche le location giuste, quindi io sul teatro, le scimmie, il festival particolare. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo deciso di fare questo festival che era il Woodfort in Puglia, proprio perché ci piaceva l'atmosfera, la logica. È un festival dove facevano suonare solo band che scrivevano musica loro. Propria e che non erano legate a major, piuttosto che etichette, insomma, vetrine. Ho capito, diciamo, Così. Per cui, diciamo, dove in qualche modo si sensibilizzava a questo modo di vivere la musica. E bene, abbiamo partecipato, è stato molto bello. Insomma, tutte quelle realtà anche piccole, biologiche. Ecco, biologiche. Per ritornare al mi prenderanno come l'agricoltore della musica. Il concetto dell'album. Bene, ringraziamo Pierpaolo Lauriola, ringraziamo i suoi amici che l'hanno accompagnato. Li ringrazio anch'io, Nicola e Fabio. Salutiamo e ringraziamo Marco Borgato, che è stato Marco, in regia. Grazie Alberto Pisco, il nostro curatore. Domani ci sarà Agostino con Zazza, musicista genovese. Cosa ci fai ascoltare, Pierpaolo, per concludere? Allora, io adesso vi faccio sentire Nel Disincanto, che poi dedichiamo ai Pliskin, visto che l'abbiamo citati prima. Allora, certo, mi sono detto, facciamolo. E io però ti volevo ringraziare anche per aver condotto in maniera, insomma, magistrale questa serata. L'ho condotto in maniera. No, ci siamo divertiti, insomma, io quando finisco di fare una serata, un concerto, una intervista in radio e mi diverto, penso che sia la cosa più bella. Certamente, è conclusione migliore, assolutamente. Il valore della musica rimane comunque questo, cioè il motivo che poi spinge probabilmente a incontrarsi tutti, no? Intorno a una chitarra, qui potremmo citare anche Fabrizio De André. Certo. Un amico fragile. Per cui, diciamo, ecco, benvenuti in questo mondo, per chi non mi conosceva o non ci conosceva, e speriamo, insomma, di andare avanti, che continui. Grazie e buonanotte a tutti. Non è facile. cerchi ancora qui. È un disincanto questo stato delle cose. È un disincanto. È un disincanto questo stato delle cose. È un disincanto voi.